hanno preparato una nuova versione del Vangelo di Cristo per la televisione. Chi beve, fuma, scopa, gioca anche a pallone, con il pubblico studio in palio mezzo milione. C'è già tutto venduto per la flagellazione, sacco e sacco in provetta, 5 euro a flacone. Toccheranno di temi, mele e fecondazione, parlerà di hip hop e mondializzazione. Sarà male a vestirlo in questa nuova missione, morirà di antrace, non di crocifissione. Sarà un ricco signore, non più uno straccione, vivrà in piazza di Spagna, nascerà a Riccione. Crediamo ormai a tutto, anche alla TV, siamo liberi di scegliere, ma solo nel menu. Se dallo schermo dicono che il prato è blu, noi ci crediamo subito come degli gnu. Con belle facce auto e attori di Kung Fu, ci hanno messo i cervelli dentro degli atù. Hanno preparato una nuova versione del concetto di pace per la televisione. Qui per poter fare stare bene i paesi, prima si deve un bene bombardare a tappeto. Hanno preparato una nuova versione del concetto di amore per la televisione. In cui amare qualcuno vuole dire strillare o regalare orsetti con la faccia maiale. Hanno preparato una nuova versione per il nuovo millennio della educazione, in cui essere genitore vuole dire lasciare ai figli un solo diritto, il mega televisore. Ma la TV ci fa anche sognare, sul mondo reale ci fa volteggiare. Così nel frattempo, con calma solare, chi la controlla ci può derubare. Abbiamo ormai a tutto, anche alla TV, siamo liberi di scegliere, ma solo nel menù. Se dallo schermo dicono che il prato è blu, noi ci crediamo subito come degli gnu. Con belle facce auto e attori di Kung Fu, ci hanno messo i cervelli dentro degli atù. Crediamo ormai a tutto, anche alla TV, siamo liberi di scegliere, ma solo nel menù. Se dallo schermo dicono che il prato è blu, noi ci crediamo subito come degli gnu. Con belle facce auto e attori di Kung Fu, ci hanno messo i cervelli dentro degli atù. Scooby-dooby-doo, aiutami too.